البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا. Buongiorno Palestina, ogni mercoledì alle 17.30 su radiowombat.net. Nel mondo ci sono oltre 70 muri di separazione, e non solo nella Palestina occupata. I muri non sono solo quelli fisici di segregazione, ma esistono anche muri ideologici e muri digitali. Mare Mantovani, coordinatrice internazionale della campagna Top the Wall e della Palestinian Land Defense Coalition, ci spiega quando e come è nata questa iniziativa, quali sono le sue finalità, i mezzi, chi sono i principali attori, come partecipare a costruire una lotta internazionalista. Nel prossimo appuntamento, il webinar di domani 26 novembre, si parlerà dell'apartheid dell'acqua, argomento globale che riguarda anche e soprattutto i palestinesi, a cui l'accesso a questa fonte vitale è consentito in misura ridotta e insufficiente. Ricordiamo che domenica 29 novembre ci saranno inoltre due interessanti avvenimenti. Alle 10 si terrà una conferenza internazionale dalla cittadella di Assisi via Zoom per la giornata ONU per la Palestina dal titolo Riconoscere lo Stato di Palestina. Troverete tutte le informazioni necessarie per l'iscrizione a Zoom sul blog di Radio Wombat. Sempre domenica alle 18.30 online in diretta dalle pagine di Facebook del sito di Noi Restiamo Umani Contropiano e BDS Italia verrà presentato il dossier Embargo Militare contro Israele. Troverete il link per il collegamento sempre sul blog di Radio Wombat. Adesso la selezione stampa a cura di Amicizia Italo-Palestinese. E subito dopo un breve stacco musicale a cui seguirà l'intervista a Mare Mantovani. Buongiorno Palestina, sono Leo con la selezione stampa della Palestina. Questa settimana abbiamo scelto sei titoli per voi. La prima, forse la più importante, è la provocazione di Pompeo nella colonia israeliana. È un articolo di Nena News e del Manifesto di Michele Giorgio. E che cosa è successo? Che il segretario di Stato Pompeo, è la prima volta che l'avrebbe fatto uno statista internazionale, ha visitato un insediamento ebraico di Pascot vicino a Ramallah, e lì ha fatto una grande provocazione, producendo e pronunciando una serie di minacce, possiamo dire. Innanzitutto ha detto che i prodotti delle colonie israeliane in Cisgiordania saranno commerciati negli Stati Uniti con la dicitura Made in Israel, e come magari qualcuno di voi sa, in Europa non è possibile, non è proibito, perché c'è stata una sentenza a livello europeo. Inoltre ha attaccato il movimento del BDS, che è attivo anche in Italia, come sapete, definendolo un cancro e un movimento antisemita. Il movimento naturalmente ha risposto dicendo loro, i sionisti, Pompeo ed altri promuovono il suprematismo, noi combattiamo ogni forma di razzismo. In aiuto del BDS è intervenuto anche Amnesty International degli Stati Uniti, che hanno detto la dichiarazione di Pompeo e quello che vogliono fare viola la libertà di espressione e mette in pericolo la protezione dei diritti umani promosso da BDS. Il secondo articolo si intitola 29 novembre, giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese, è un articolo della rete Pace e Disarmo. Nel 1977 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 29 novembre giornata internazionale della solidarietà con il popolo palestinese. Ogni anno anche in Italia ci sono degli eventi. Quest'anno, con il titolo Riconoscere lo Stato di Palestina, pace giusta tra Palestina ed Israele, questo evento si svolgerà domenica 29 novembre, allora domenica prossima, alle 10 ad Assisi. Potete anche voi assistere iscrivendovi alla piattaforma Zoom che trovate in questo articolo, quindi dalle 10 in poi di domenica prossima potete partecipare a questo grande evento promosso da tante associazioni, anche dai sindacati confederali. Il terzo articolo che proponiamo è Kamala Harris, il capitalismo e l'amicizia con Israele. È un articolo di Lorenzo Poli della piattaforma Invicta Palestina. E tanti di voi hanno assistito alla glorificazione, santificazione, potremmo dire, della vittoria di Biden e della sua vice Kamala Harris. Soprattutto la Kamala viene presentata come grande progressista e liberal, ma dobbiamo analizzare un po' questa faccenda. Innanzitutto, non va dimenticato il suo ruolo della Harris da super poliziotta, come procuratrice generale della California, per esempio, si oppose alla scarcerazione anticipata di detenuti. Inoltre, è da sempre una grande promotrice dell'amicizia con Israele. E abbiamo inserito una registrazione Facebook in cui lei e Biden davanti alla lobby più potente americana AIPAC si presentano e promuovono questa amicizia e parlano di sostegno incondizionato con Israele e parlo del futuro del paese come Stato ebraico e democratico. Tra l'altro una definizione e una concezione antidemocratica per tutti i giuristi. Un po' preoccupante è la loro vicinanza anche personale di parentela al mondo ebraico. Il marito della Harris è un grande e noto avvocato ebraico sionista degli Stati Uniti e i figli di Biden si sono sposati con degli ebrei. Questo forse non vuol dire niente, ma soprattutto quello che dicono davanti alle telecamere in cui vogliono rafforzare addirittura le relazioni con Netanyahu e il paese sionista di Israele. Dico soltanto che probabilmente non dobbiamo aspettarci troppo da questa coppia liberal democratica Biden-Harris per i diritti dei palestinesi. Il prossimo articolo si intitola Le reti sociali cancellano i palestinesi. È una traduzione di Middle East Eye di Jonathan Cook, che in un lungo articolo scrive che Facebook, Google e Twitter, come sappiamo tra l'altro, non sono piattaforme neutrali. Anche Zoom e YouTube controllano lo spazio pubblico informatico per aiutare i potenti e possono cancellare i nostri contributi da un giorno all'altro. Quello che è preoccupante è che Israele da sempre ha potuto trasformare le reti sociali in alleati contro i palestinesi. E oltre a cancellare decine di migliaia di posti palestinesi, Israele ha convinto Facebook a ritirare gli account delle agenzie di stampa e di giornalisti palestinesi di spicco. Una questione molto preoccupante. Il prossimo contributo è una traduzione che ho fatto da vari siti tedeschi e internazionali di un evento molto interessante che è avvenuto il mese scorso in Germania. The School of Unlearning Zionism, oppure Disimparare il Sionismo. Come pochi sanno, a Berlino c'è un gruppo folto, diciamo, numeroso di israeliani, soprattutto giovani, che è emigrato da Israele a Berlino. Un gruppo di loro, all'Accademia delle Belle Arti, ha deciso di interrogarsi e discutere criticamente la storia dello Stato di Israele e del sionismo, sfidando la narrativa ufficiale. Siccome avevano invitato alcuni progressisti che sono venuti direttamente o online, come Ilan Pape ed altri, allora l'ambasciata israeliana a Berlino ha immediatamente accusato questa scuola di alimentare l'antisemitismo contro lo Stato ebraico. E questa condanna è stata poi sposata anche dalle autorità tedesche, che addirittura ha accusato questa scuola, questo gruppo, di essere vicino, addirittura sponsorizzata dal movimento BDS, che non era nemmeno vero. E così hanno sostenuto i contributi e tolto addirittura l'iniziativa da Facebook e altri social. Soltanto è intervenuto anche un ex deputato dei Verdi, che viene chiamato tra gli attivisti il portavoce dell'ambasciata israeliana, e soprattutto dopo tante proteste questa cancellazione è stata ritirata e si è trovato di nuovo in rete. Un evento molto interessante, vi raccomando a leggere, e chi di voi mastica abbastanza bene o bene l'inglese, è inserito anche il link ad un intervento online di Ilan Pape, sionismo e colonialismo sionista, è molto interessante proprio da ascoltare. L'ultimo articolo è di Amira Haas, apparso sulla rivista internazionale del 13 di novembre. Nuovi casi di coronavirus tra i detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. Appena due giorni sono stati diagnosticati 66 nuovi casi di coronavirus tra i detenuti palestinesi del carcere di Gilboa in Israele. Purtroppo le istituzioni israeliane non fanno niente, mentre i detenuti israeliani possono essere liberati e messi in libertà per l'affollamento della causa Covid-19, questo non vale per i palestinesi, che sono soggetti di alto rischio. Siamo arrivati alla fine. Per approfondire questi temi discussi, consultate il nostro sito amicizia-italo-palestinese.org. Vi saluto, alla settimana prossima, Leo. يطاب هذا الحاسد يطاب sera, che sera, io tobbi, هذا الحزين, io tobbi, هذا الحزين, ويبتسم, يضرب ويقعا, يضرب ويقعا, يضرب يضرب يضرب يضرب يضرب ويقعا Sono Marisa, oggi abbiamo ai microfoni di Radio Wombat Maren Mantovani, coordinatrice internazionale della campagna Stop the Wall e della Palestinian Land Defense Coalition. L'iniziativa online Stop the Wall ha preso avvio il 9 novembre, in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino del 1989, e sta andando avanti con vari appuntamenti giornalieri, di cui l'ultimo sarà il 26 di questo mese. Innanzitutto, Maren, vorremmo capire con te e sapere quando è nata l'idea della campagna Stop the Wall e qual è stata fin dall'inizio la visione strategica di questa campagna. Grazie per darci lo spazio lì a Radio Wombat e per poter spiegare un po' questa idea di, da un lato, quello che è la campagna contro il muro in Palestina, la campagna Stop the Wall, che nasce nel 2002 quando Israele comincia a costruire il suo muro illegale nella Cisgiordania. E da questo momento, nel 2002, quando i comitati popolari spontaneamente si organizzano per organizzare una resistenza popolare e letteralmente andare con i propri corpi per frenare i bulldozer che arrivarono per costruire questo muro che oggi è quasi 800 chilometri e più di 8 metri di altura e va a annexare più di 60% della Cisgiordania e da quel momento nasce la campagna Stop the Wall, la campagna palestinese contro il muro e continua fino ad oggi a lottare contro il muro, contro gli assentamenti, oggi contro il piano di Trump e Israele dell'annexione, il negozio del secolo. E molti anni più tardi, nel 2017, quando Trump comincia e vince la sua campagna elettorale, con la promessa di un grande, grosso e bello muro, che diciamo questo è il momento per discutere non solamente il muro in Palestina e quello che significa per il popolo palestinese, ma vedere a livello globale quello che è successo dal 2002 fino ad oggi, allora è 2017 e fino ad oggi, oggi mesmo che Trump ha perso le elezioni, però i muri esistono come prima Infatti nel 2017 insieme con movimenti messicani e palestinesi abbiamo lanciato questo chiamato per all'inizio una giornata globale di azione o interazione per un mondo senza muri, che molto rapidamente è stato firmato e appoggiato per più di 400 organizzazioni e reti di tutto il mondo, con questa idea di dire: quando Israele ha cominciato a costruire il suo muro nel 2002, tutti quanti sono rimasti scioccati. Io mi ricordo che per spiegare alle persone che noi non stavamo dicendo bugie, che Israele veramente stava costruendo questo muro, ci è voluto. E oggi abbiamo più di 70 muri in, o nelle frontiere o in territori occupati in, in tutto il mondo. E quindi qua è nata proprio una fashion, una moda di muri intorno al mondo, però questi muri non sono gli unici muri, questi sono solamente un simbolo di una politica di muri, di segregazione, di discriminazione, che costruisce muri fisici, però costruisce también anche muri strutturali, muri legali, muri ideologici. E ci dobbiamo mettere insieme contro tutti questi muri e costruire insieme un mondo senza muri. E da lì nasce questa iniziativa globale per un mondo senza muri. Senti, ti domandavo, quindi gli obiettivi che vi siete posti fin dall'inizio con questa campagna, quali sono stati? Uno, due, quelli che sono stati? All'inizio era veramente molto basico e molto ampio, era dire, vabbè, qua il 9 di novembre facciamo un dia di interazione e vediamo di mobilizzare tutti quelli che in una maniera o altra sono interessati, hanno una questione contro i muri, vorrebbero un mondo più giusto, e mantenendo también questa idea di muri molto molto ampio. Poi negli anni successivi abbiamo cominciato a vedere un poco meglio, fissare un poco meglio qual è la riflessione, qual è l'analisi che possiamo fare collettivamente rispetto a questo assunto. Ed è evidente che quello che era l'intuizione già dal primo momento era che da un lato abbiamo questa crescente destra di Trump, di Bolsonaro, di Orban, di Salvini in Italia, di Modi in India, Duterte, e possiamo andare avanti. E dall'altro, in questa nuova destra, nuova vecchia destra e nuovo vestito, non a caso anche Israele come modello. Tutti quanti vedono Israele come un modello, e la logica è molto semplice, facile. Da un lato hai una nuova destra che costruisce il noi contro il nemico, gli immigranti, i musulmani, LGBTQ, quello che sia, e dall'altro lato il noi, poi anche lì l'attacco al femminismo, ai diritti. Da questo lato, e poi per organizzare tutta questa politica segregazionista e discriminatoria c'è bisogno di un sistema repressivo militarista che funzioni molto bene, e Israele il modello perfetto. E il modello costruito sopra il militarismo, sulla repressione, costruito sulla idea della supremazia di una parte della popolazione sopra l'altra, e quindi vedendo anche la lotta palestinese in questo senso come una parte fondamentale, necessaria, di una lotta molto più grande, molto urgente oggi contro questa nuova vecchia destra che anche se Trump ora ha perso, ugualmente sta tomando sempre più piede come una delle risposte a una crisi sistemica, economica, sociale e ecologica che realmente stiamo affrontando. Ecco, Mari, rispetto a quello che hai detto in questo momento, mi veniva a domandarti se Stop the Wall, la campagna Stop the Wall, promuove delle forme di resistenza? La campagna Stop the Wall, la campagna palestinese, da un lato evidentemente promuove la resistenza popolare delle manifestazioni, delle organizzazioni, dell'organizzazione nel terreno in Palestina, dell'altro facciamo parte del movimento di boicott, disinvestimenti e sanzioni che la forma più efficace in questo momento di solidarietà internazionale è quella alla quale praticamente tutti i movimenti palestinesi, sindacati e forze e movimenti politici aderono, e l'idea è dire noi oggi dobbiamo rompere le complicità fra Israele e il resto del mondo, e lì anche la connessione diretta con la campagna, l'iniziativa Mondo Senza Muri, perché la logica è che rompendo questa complicità fra il resto del mondo e Israele, non solamente si smette di appoggiare economicamente e ideologicamente all'apartheid di Israele, però dall'altro si fa sì anche che le esportazioni ideologiche, metodologiche e tecnologiche di Israele nel campo della militarizzazione, della repressione e in altri campi, anche questi non succedono più. Nel caso di Europa abbiamo lavorato insieme negli ultimi anni con movimenti non solamente di solidarietà con Palestina, però ma anche movimenti per i diritti dei migranti e movimenti antimilitaristi, perché lì è l'esempio chiaro di quello che significa la complicità fra Europa e Israele quando l'Unione Europea in questi ultimi anni ha cominciato sempre di più a ritirare le sue navi e sostituirle con droni che nel Mediterraneo, con il risultato che quello che era già un mare assolutamente mortifero e che non deve essere mortifero. Il Mediterraneo non è il Pacifico. Nel Mediterraneo nemmeno un pesce potrebbe morire senza che ce ne diamo conto, e che decine di migliaia di persone muoiono in questo mare è assolutamente un crimine. Questi non muoiono, questi sono stati uccisi perché nessuno li ha aiutati. E in questa politica di dire noi non facciamo un lavoro di aiutare ai rifugiati, ai migranti, ma costruiamo una maniera tale nella quale continuiamo a militarizzare il Mediterraneo, però allo stesso tempo in una maniera che non può salvare vite, i droni, i droni israeliani della Elbit Systems e della Israeli Aerospace Industries, i droni che Israele ha sviluppato per uccidere le persone in Gaza, sono ora utilizzati per l'Unione Europea nel Mediterraneo e in questo momento indirettamente uccidendo le persone che stanno cercando una vita migliore attraverso la fuga sul Mediterraneo. E lì ci siamo incontrati insieme dicendo: qui abbiamo la politica dell'apartheid di Israele, abbiamo la politica assolutamente criminale dell'Unione Europea, i due si sono messi insieme per creare morti fra gli migranti e le migranti e il popolo palestinese, e noi ci dobbiamo mettere insieme fra gruppi che lavorano sulla questione della migrazione, gruppi che lavorano sulla questione della militarizzazione e i gruppi di solidarietà con Palestina e il popolo palestino per rompere questa complicità. E questo è solamente uno degli esempi di interconnessione che stiamo cercando con Mondo Senza e sulla quale stiamo lavorando. Ecco, infatti mi viene da domandarti, quindi Stop the Wall ha contatti con organizzazioni israeliane che sostengono il popolo palestinese? Sì, claro. La questione non è se è israeliano o no, la questione è una questione di chi appoggia i diritti palestinesi, il diritto al ritorno dei profughi palestinesi, che sono la maggioria del popolo palestinese, il diritto all'uguaglianza del popolo palestinese, anche se hanno cittadinanza israeliana, non può essere una cittadinanza di secondo o terzo grado, e la fine dell'occupazione degli assentamenti, non si dice così in italiano, delle insediamenti, colonne, insediamenti del muro. E chi appoggia questi diritti e chi lavora insieme con il movimento di boicott, disinvestimento e sanzioni è benvenuto, e abbiamo una serie di iniziative di cooperazione in questo senso. Facciamo un piccolo stacco musicale e poi riprendiamo, Maria. أرجل تتسابق تتسابق أرجل أرجل تتسابق تتسابق أرجل تتسابق تتسابق أرجل تتسابق في الشارع في الشارع Mantovani, coordinatrice internazionale della campagna Stop the Wall. E in riferimento appunto alla maratona delle varie webinar che si sono svolte nel mese di novembre, volevo chiederti chi ha partecipato a questi incontri e quali sono state le informazioni, i risultati ottenuti, anche se ancora deve avere termine perché l'ultima sessione è il 26 di questo mese. Sì, questa, come tu dici giustamente, maratona di webinars, che questo anno la giornata di azione per un mondo senza muri si è trasformato in un mese di riflessione e discussione per un mondo senza muri. Ha cominciato giustamente il 9 di novembre con una conversa globale che sono stata molto felice di avere persone assolutamente incredibili Dell'India avevamo Viju Krishnan, che è uno dei leader del movimento contadino in India, che in questo momento stanno fra i più forti a enfrentarsi a questa politica dell'indufascismo di Modi, che è anche grande amico di Israele, non a caso. Poi dall'altro lato, Brasile, lì la Sonia Guajajara, che è una delle figure più importanti del movimento indigena e ambientalista in Brasile, anche lei in prima linea contro Bolsonaro, questo tipo di dire destra fascista, altro grande amico di Israele. Poi Berta Zuniga, figlia di Berta Cáceres e ora coordinatura del COPIN in Honduras contro il golpismo in Honduras per i diritti alla terra e i diritti indigeni. Anche lì Honduras, non a caso, grande amico di Israele, e quindi questa discussione con Jamal Juma, evidentemente il coordinatore della campagna contro i muri in Palestina, su come costruire una lotta internazionalista contro i muri di oggi. Giustamente anche solamente pochi giorni dopo le elezioni negli Stati Uniti, per noi era importante anche dire sì, guardiamo tutti gli Stati Uniti perché è molto importante quello che sta succedendo, però quello che veramente abbiamo bisogno di costruire è una discussione e una solidarietà internazionalista di tutti quelli che stanno fuori di questi muri. Ma a parte questa grande discussione globale, poi siamo entrati in una serie di muri più tematici, diciamo. Cioè, c'era anche un webinar, e sta ancora disponibile online per chi vuole vederlo, giustamente sulla questione della connessione fra Israele, Europa, militarismo, politiche anti-migratorie e l'apartheid israeliana del quale ho parlato prima. Poi abbiamo avuto una discussione molto interessante sopra i muri digitali. I muri digitali, quella sorveglianza, quella da un lato sorveglianza e dall'altro quella barriera che ci abbiamo quando dobbiamo lavorare e vivere nello spazio di internet, nello spazio del digitale. Penso che questo era per la prima volta una connessione fra i movimenti per i diritti digitali e i movimenti per i diritti del popolo palestinese, visto che Israele e le sue tecnologie di sorveglianza sono abbastanza importanti anche in questo senso. Evidentemente i grandi Google, i grandi Microsoft, Facebook sono tutti statunitensi, ma tutti quanti usano la tecnologia israeliana e hanno i suoi centri di ricerca in Israele da anni. Quindi lì abbiamo proprio cominciato un discorso di come lavorare insieme, quanto rispetto alla questione della migrazione europea. Abbiamo già un piano di lavoro e già strategie da sviluppare per fare campagna. Solamente ora, sabato, abbiamo discusso una questione che normalmente non si tocca, però penso che soprattutto in questo momento era assolutamente centrale rilevare, era la questione dei muri arabi, perché Israele evidentemente con 6 muri, non solamente in Cisgiordania, non solamente in Gaza, contro Libano, contro Siria, contro Giordania e contro Egitto, stanno anche costruendo o hanno costruito muri, sono i maestri dei muri, però i sauditi sono direttamente dopo con 3 muri, uno contro gli yemeniti, poi contro l'Iraq e altro, e fra Libia e Tunisia abbiamo un altro muro, la Siria completamente circondata di muri, quindi questa questione dei muri è anche una questione araba ed è una questione, e lì abbiamo un po' guardato non solamente la questione del muro israeliano dentro del territorio palestinese e arabe, ma anche come, e non a caso evidentemente, i muri arabi costruiti dai governi arabi, e non dobbiamo scordarci il muro più antico in questo senso che è il muro del Marocco nel Sahara occidentale, come questi muri sono costruiti per governi che non a caso sono fra i primi a avere le relazioni con Israele, normalizzare l'apartheid israeliana e evidentemente essendo governi completamente antipopolari e autoritari, e quindi abbiamo lì cominciato anche una discussione sulla questione di come possiamo fra gli arabi, fra il popolo arabo, fra i popoli arabi, unirsi e organizzarsi, e anche un po' dismistificare questa idea che lì il mondo arabo sta appoggiando la Palestina, quando sappiamo perfettamente che sì, i cittadini sì, i governi hanno tutte altre alleanze, e quindi questa era anche una discussione molto interessante, e quella che ci rimane ancora sulla questione dell'acqua, guardare l'acqua e la impossibilità di avere accesso all'acqua come un altro muro di ingiustizia. Evidentemente la politica israeliana di rubo dell'acqua, di apartheid dell'acqua, che fa sì che i palestinesi hanno meno acqua di quello che è il minimo prescritto per le Nazioni Unite per la sopravvivenza, in quanto i coloni israeliani che stanno a pochi metri e stanno con le sue piscine e tutto quanto, e lì avremmo anche esperienze dall'India, dall'Africa e dell'America Latina per discutere la questione della lotta dell'acqua insieme. E questo erano in realtà solamente pochi webinar che noi abbiamo gestito, diciamo, in maniera centralizzata. Ci sono stati molti altri che in maniera decentralizzata sono state fatte. Per il 29 di novembre, il Dia internazionale di solidarietà con il popolo palestino, e fine del novembre di questo mese contro il muro che stiamo vivendo ancora. Ecco, ti volevo domandare, appunto, scusami se ti interrompo, ti volevo domandare, per l'ultima sessione, il 26 di novembre, avete già prestabilito una tematica da sviluppare o sarà un incontro conclusivo di tutto quello che è stato detto, come tu ci hai spiegato in precedenza? Il 26 di novembre? Sì. Sì. Il 26 di novembre va a essere la tematica dell'acqua. Ah, ok, scusa, non l'avevo capito allora. Poi il 29 di novembre stiamo in questo momento lavorando per editare tutti i webinar che sono stati fatti per tirare i problemi tecnici o sottotitolari quando si ha bisogno e disponibilizziamo tutto quanto nella nostra pagina web e in Facebook, perché così tutti quelli che forse ci ascoltano ora e si sono persi quello che già è stato fatto, possono poi, quando vogliono, andare lì e ascoltare. Devo dire che per la maggior parte dei webinar non siamo riusciti a avere la traduzione in spagnolo, che va avremo anche ora il 26, va sia in inglese e spagnolo, e quindi il 29 di novembre questa rassegna va a essere solamente per tre webinar anche in spagnolo, per il resto solamente in inglese, e non abbiamo avuto né il tempo né le capacità per tradurre qualcosa in italiano. Scusate. Siamo abituati purtroppo che la nostra lingua sembra che sia quella più studiata al mondo, ma quella meno parlata e soggetta appunto a traduzioni. Quindi per fare memoria anche per chi ci ascolta, tutta questa documentazione e registrazioni si potranno trovare sul sito andando a digitare Stop the Wall. stopthewall.org. Benissimo. Senti Mare, un'ultima domanda, perché vorremmo capire anche noi con questo piccolo, diciamo, intervento che e possibilità che ci dà la radio, se possiamo essere un valido aiuto, e quindi ti chiedo come potremmo sostenere, come tutti noi, no, a vario titolo possiamo sostenere la resistenza popolare promossa da Stop the Wall. C'è delle azioni che possiamo fare, dei comportamenti che possiamo tenere, di sostegno, di donazione? La cosa più importante da fare per chi ci ascolta sarebbe mettersi in contatto con il movimento di BDS in Italia. Loro hanno una pagina web bdsitalia.com. se non mi sbaglio, sì. E hanno una serie di campagne molto interessanti e molto importanti. Ci stanno anche appoggiando sulla questione del lavoro contro i droni israeliani nel Mediterraneo, però lì si sta facendo un lavoro molto più ampio rispetto alle relazioni militari fra Italia e Israele. Ed è scioccante sapere che Italia è uno dei paesi, penso il terzo più importante partner militare di Israele in Europa, e sono contratti da un lato evidentemente sono contratti pubblici federali, dall'altro sono anche le università che sono coinvolti in questo, e c'è un lavoro da fare di coscientizzazione. Penso che lì la radio sarebbe fondamentale per spiegare tutto quello che sta succedendo, e B, di pressione popolare perché queste relazioni finiscano. L'Italia non ha bisogno dei droni israeliani e non ha bisogno di vendere le sue armi a Israele. E quindi lì, io mi dico, per chi sta in Italia, cercano bdsitalia.org, vedono chi sta lavorando nella vostra città, nella vostra regione, e come è possibile organizzarci per fare campagne dall'Italia. Se poi per fine anno vi resta anche un poco di dinero per appoggiare i contadini organizzandoci in Palestina, evidentemente su stopthewall.org potete anche fare una donazione finanziaria per la campagna contro il muro. Uno non esclude l'altro, però la cosa importante è terminare la complicità fra Italia, Europa e Israele. Senti Maria, ma secondo te, che puoi vedere dalla tua posizione, diciamo, di coordinatrice a livello internazionale, il BDS è veramente una spina nel fianco del governo israeliano, dello Stato israeliano? Assolutamente. E qui la questione non è quello che penso io. Io penso che la questione è vedere che solamente qualche giorno fa avevamo Mike Pompeo, una delle ultime cose che questo governo degli Stati Uniti, ancora di Trump, ancora può fare, e arriva in per incontrarsi con Netanyahu, va agli assentamenti israeliani nella Cisgiordania, va negli assentamenti israeliani nelle alture del Golan Sirio e dice che gli Stati Uniti criminalizzeranno il movimento di BDS. E quindi questo significa che nella loro politica, in tutta la crisi che hanno, non sanno se hanno vinto o no le elezioni, come fanno per organizzarci. L'unica cosa che gli viene in mente è ancora fare un messaggio rispetto al BDS e la criminalizzazione del BDS. Evidentemente, Mike Pompeo può dire questo, è più facile detto che fatto. Negli Stati Uniti c'è ancora una Costituzione che Trump non è riuscito a distruggere, quindi vediamo poco come stiamo lì. Il fatto che Israele ha un ministero interamente dedicato a combattere il movimento di BDS è altro segnale che siamo veramente una spina nel fianco. La cosa più interessante in tutto questo è il fatto che con tutto il lavoro che hanno fatto, tutti i soldi che ci hanno messo, tutto il ministero che hanno creato, l'appoggio di Trump, di quello che sia, non sono riusciti a non distruggere, ma nemmeno frenare questo movimento. Questo momento sta ancora ogni giorno crescendo, ogni giorno ci sono vittorie di un lato o dell'altro lato del mondo. E io penso che lì c'è solamente una risposta. Non si può distruggere un movimento basato sulla coscienza di milioni di persone in tutto il mondo. La coscienza popolare non si può distruggere con nessuna arma, e questa è la nostra grande forza. Noi non abbiamo i soldi, non abbiamo niente se non la giustizia da nostra parte, e la coscienza e l'energia e il compromesso delle persone. E infatti a Tel Aviv, all'aeroporto, se e quando ti fermano, la prima domanda che ti fanno, ti chiedono se hai sottoscritto il BDS, perché è proprio un problema arduo per loro. Non riescono veramente a scalfire questa iniziativa che a questo punto è a livello veramente internazionale, di boicottaggio, di investimento e sanzioni verso il governo israeliano. Bene, e con questo il tempo è terminato, che abbiamo alla radio purtroppo, e quindi Marian ti dobbiamo salutare, ringraziatone infinitamente di tutto quello che ci ha detto, delle spiegazioni e dell'esortazione anche a fare quello che si era detto, donazioni o visitare il sito per andare a recuperare questa webinar che è interessante se per qualcuno l'ha persa nel frattempo. Di nuovo grazie. Grazie a voi. Che lottiamo insieme, che un giorno i muri cadranno. Prima di passare alla consueta rassegna musicale, vi ricordiamo i due appuntamenti di domenica 29 novembre. Alle ore 10, conferenza internazionale dalla cittadella di Assisi per riconoscere lo Stato di Palestina. E alle ore 18.30 su Facebook, Noi Restiamo Umani, Contropiano e BDS Italia presenteranno il dossier Embargo Militare contro Israele. Troverete entrambi i link degli eventi sul blog di Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Per la rassegna musicale ascolterete brani di Palestine Remain My Melody di Marwan Abado and Band dal vivo al Palazzo dell'UNESCO di Beirut nel 2010 in occasione del tour speciale di raccolta fondi per l'UNRWA, l'ente delle Nazioni Unite per il soccorso ai rifugiati palestinesi. Marwan Abado è musicista, cantante, compositore e poeta. Nato nel 67 da una famiglia di rifugiati palestinesi a Beirut, in Libano, Abado si trasferisce nel 1985 a Vienna, che è diventata il centro della sua vita personale e artistica. Abado attraversa i confini tra l'Oriente e l'Occidente, cercando con la sua musica il dialogo e costruendo ponti tra varie tradizioni di musicisti. Il risultato? Il suono specifico di Abado, musica cosmopolita e senza confini. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 17.30. Inshallah! ascolta. يضرب يضرب يضرب يضرب يضرب يسمعوا لا لا لا أحد يسمع. يا ليلي قمرنا رجع يلف المدينة ويشم الزعتر قدس الحسينة قمرنا رجع يلف المدينة ويشم الزعتر قدس الحسينة يا ناس عدوا اسراج الخيل الخيل يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي شكرا.